Rassegna Stampa Europa. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati al nostro appuntamento settimanale con la rassegna stampa europea. Economia, inondazioni e Turchia sono questi i principali temi che hanno campeggiato questa settimana sulle prime pagine e anche all'interno dei quotidiani e dei settimanali dell'Unione Europea, del nostro continente. Andiamo un po' con ordine, partendo proprio dal tema economico. Il tema economico ci porta in Spagna e il país. I grandi paesi europei resistono ai diktat di Bruxelles, scrive il país. I principali paesi dell'Eurozona ignorano le raccomandazioni di Bruxelles, mentre Francia e Germania si oppongono apertamente alla Commissione, nota il país, che aggiunge: la crisi sta erodendo l'influenza della squadra del Presidente della Commissione, José Manuel Durão Barroso, sottolinea appunto il quotidiano, aggiungendo che la Commissione europea, impegnata in un braccio di ferro con la Germania, attraversa una crisi di credibilità. Restiamo in tema economico perché andiamo a vedere quello che sempre la Commissione europea starebbe progettando, lo riporta il Financial Times. Bruxelles vuole togliere a Londra la supervisione sul libro. Scrive appunto il quotidiano economico britannico: secondo i piani della Commissione europea, il controllo del tasso interbancario libero potrebbe essere tolto a Londra e trasferito a Parigi. La proposta, che sarà presentata in estate, prevede che la gestione di centinaia di prezzi chiave, compresi quelli del petrolio e dell'oro, venga trasferita alla European Securities and Markets Authority, con base appunto in Francia. Il Financial Times sottolinea che la decisione di togliere a Londra il controllo del libro farà andare su tutte le furie il cancelliere britannico George Osborne, che ha già preparato un'ampia riforma per ripristinare la fiducia nell'istituzione. Sempre economia, con l'autocritica che ha fatto il Fondo Monetario Internazionale a proposito della Grecia, lo riporta il quotidiano ellenico Tanea. Il Fondo Monetario Internazionale ammette gravi errori nell'elaborazione del piano di salvataggio della Grecia del 2010 e nella ristrutturazione del debito ellenico del 2012. In un documento riservato, svelato dal Wall Street Journal, scrive Tanea, l'FMI dà la colpa dell'errore alla Commissione europea e ai paesi europei troppo ottimisti sulle prospettive economiche della Grecia. E ancora in tema economico, come vi annunciavamo, c'è la questione della Lettonia, che dall'anno prossimo dovrebbe diventare il 18° paese dell'Eurozona. Lo scrive il quotidiano Diena, quotidiano lettone, riportando ovviamente la notizia di mercoledì proveniente da Bruxelles. La Commissione europea ha dato il via libera all'adesione della Lettonia, prevista il 1° gennaio 2014, scrive Diena. Nonostante il via libera fosse una semplice formalità, bisogna ricordare che la nostra società nel suo complesso ha compiuto grandi sacrifici per arrivare a questo risultato. Il rapporto è una sorta di premio dovuto. L'unico problema riguarda l'aumento delle critiche che rimettono in discussione i criteri di convergenza. È possibile che le cifre per cui ci siamo battuti con tutte le nostre forze presto si rivelino sbagliate. Lasciamo l'economia per passare a un altro tema caldo di questa settimana: le inondazioni che hanno devastato il centro Europa. Iniziamo con il quotidiano ceco Mladá Fronta Dnes, che osserva nell'edizione edicola questa settimana che la portata dei danni causati dalle inondazioni che hanno colpito la Repubblica Ceca, le più gravi dell'ultimo decennio, sollevano interrogativi riguardo le responsabilità. 7 persone sono morte, 4 scomparse, 900 hanno dovuto abbandonare le case. Gli esperti affermano che i politici non hanno preso sul serio i loro avvertimenti, mentre i politici e le autorità locali criticano le previsioni meteorologiche e idrologiche confuse. E ne parla di queste inondazioni anche il quotidiano austriaco Der Standard. Rischio di inondazione peggiore del 2002, scriveva questa settimana, a Salisburgo, nel Tirolo e nel Vorarlberg, intere comunità finite sott'acqua. Gli esperti prevedono appunto un record dell'innalzamento delle acque. La questione inondazioni pone anche un problema, se vogliamo, ambientale. E di ambiente parla il quotidiano olandese De Volkskrant, che scrive: l'accordo europeo mette pressione sulle leggi orientali, gli accordi di libero scambio che l'Unione Europea ha negoziato con il Canada e si prepara a discutere con gli Stati Uniti potrebbero avere conseguenze di rilievo sulle leggi per la protezione dell'ambiente in vigore nell'Unione Europea. Secondo il quotidiano, gli accordi permetteranno agli investitori stranieri di chiedere compensazioni finanziarie nel caso in cui ritengano che le leggi ostacolino i loro affari. Andiamo avanti con il tema turco questa volta, che è se vogliamo, il terzo tema principale di questa settimana sui giornali europei. È vero, la Turchia non è tecnicamente nell'Unione Europea, però è un paese candidato a entrarvi, e chiaramente le proteste di piazza con quello che ne è seguito hanno scatenato anche il dibattito sull'opportunità di ammettere la Turchia nell'Unione Europea. Allora, il quotidiano filo governativo Star turco ha riassunto in un hashtag la risposta del primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan ai manifestanti che da una settimana chiedono le sue dimissioni. L'hashtag è «Noi non molliamo». Erdogan e i suoi hanno cominciato a reagire sui social network, che il premier aveva definito la peggiore minaccia per la società turca, largamente utilizzati dai giovani oppositori per veicolare i loro messaggi. Il quotidiano Posta, invece, un quotidiano a grande tiratura, cita in prima pagina il presidente della Repubblica, Abdullah Gül. La democrazia non sono solo le elezioni. Di fronte a una concezione plebiscitaria della democrazia del primo ministro Erdogan, il presidente della Repubblica Gül, considerato più moderato, ricorda che a parte le elezioni ci sono altri mezzi per esprimere opinioni diverse e critiche, soprattutto tramite manifestazioni pacifiche. E il quotidiano invece Taraf scrive: Erdogan non ha capito che persone provenienti da tutte le frange della società sono scese in strada per dire non vogliamo che ci venga imposto come vivere. Insomma, Taraf, in modo molto critico, attacca Erdogan e dice non ha imparato la lezione. Mentre il quotidiano tedesco di Tageszeitung parla appunto delle proteste di piazza in Turchia, titola «Benvenuti a Resistanbul», parafrasando il nome della capitale economica turca, e scrive: questa volta la tracotanza di Erdogan lo ha indotto in errore. Lo scontro sul parco si è trasformato in un regolamento di conti su altre questioni: il divieto sull'alcol, le pressioni sull'università, la repressione della libertà di espressione, in generale l'arroganza con cui gli islamici si sono imposti pensando che il paese appartenesse soltanto a loro. Dopo aver dato un po' una scorsa ai temi principali di questa settimana, andiamo anche su altre notizie che hanno attirato la nostra attenzione sui quotidiani, sui principali quotidiani europei. Andiamo in Portogallo, dove il quotidiano Diario de Noticias titola «Il Portogallo è più credibile, ma il debito continua a battere record». Due anni dopo le ultime elezioni, Diario de Noticias confronta le promesse del primo ministro e i risultati ottenuti dal governo. Per il 2014, Passo Coelho, premier, aveva promesso una crescita del 2,5%, un tasso di disoccupazione al 12,6% e un deficit all'1,8%. Le previsioni per l'anno prossimo attuali invece sono dello 0,6% di crescita, disoccupazione del 18,5% e deficit al 4%. Secondo il quotidiano di Lisbona, il governo non è riuscito a rispettare le previsioni, nonostante il Portogallo abbia riguadagnato credibilità sui mercati. E ci sono problemi anche in Gran Bretagna, parliamo ovviamente di economia interna ai paesi europei, perché il cancelliere britannico George Osborne, come scrive The Independent, ha avvertito i ministri: tagliate adesso o sarà peggio. Di fatto ha messo in guardia i ministri del governo inglese, che rifiutano di ridurre la spesa nei loro dipartimenti, avvertendoli che saranno puniti con tagli ancora più duri se decideranno di resistere fino all'ultimo nella speranza di strappare un accordo migliore. I tagli non ancora concordati riguardano difesa, istruzione, affari, trasporti, amministrazioni locali e ambiente. Andiamo ancora un po' a curiosare all'interno delle notizie nazionali e andiamo nell'area cosiddetta del Benelux, cioè Belgio, Olanda e Lussemburgo, perché, come scrive il quotidiano Trou, c'è la richiesta di una commissione d'inchiesta sul fallimento tecnico e commerciale del treno ad alta velocità Fira, dopo che le ferrovie olandesi avevano annunciato alla vigilia la fine del contratto con il fornitore dei convogli. Attenzione, è l'azienda italiana Ansaldo Breda. Il 4 giugno le ferrovie belghe, che hanno annullato l'ordine dei treni, hanno chiesto l'apertura di un procedimento penale contro Ansaldo Breda per violazione delle regole sulle gare d'appalto. La società italiana respinge le accuse. Dalla Benelux alla Polonia, dove il quotidiano Zjednik Gazeta Prawna fa un po' il bilancio dei benefici della Polonia in questo ventennio e più di appartenenza all'area europea. Abbiamo qualcosa da festeggiare, titola il quotidiano economico in occasione del 24esimo anniversario delle elezioni parlamentari dell'89, che hanno rappresentato per la Polonia l'inizio della transizione dal comunismo alla democrazia. Il quotidiano elenca i principali vantaggi, tra cui la libertà politica, un PIL che è quasi raddoppiato, l'affermazione di uno spirito imprenditoriale e un miglioramento delle condizioni di salute. Ricordiamo che la Polonia è dal 2004 membro dell'Unione Europea. È stata una settimana anche di elezioni locali in Lettonia, ancora 4 anni di tandem. Torniamo dunque in Lettonia col quotidiano Diena, che parla delle elezioni a Riga. Sindaco di Riga Usakovs e il suo braccio destro Ameriks sono stati rieletti alla guida della capitale col 58,5% dei voti. E infine in Slovenia, perché l'ex primo ministro sloveno Janez Janša, così come scrive il quotidiano Dnevnik, è stato condannato a 2 anni di prigione per corruzione nell'acquisto da parte dello Stato di equipaggiamenti militari della società finlandese Patria nel 2006. Questa è l'ultima notizia della nostra rassegna stampa europea. Ancora un augurio di buona giornata e di buon weekend da Sergio Nava. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.